Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Mr. Kilowatt, io sono Maurizio Melis e stasera cercheremo insieme al nostro ospite di fare il punto sui vari tipi di caldaie esistenti e soprattutto sull'approccio che bisogna avere nel momento in cui ci si trova davanti alla necessità di sostituire la caldaia. Gli ascoltatori di Mr. Kilowatt ormai hanno capito che non esistono tecnologie migliori in assoluto, ma esistono circostanze e contesti diversi, sia di tipo tecnico che di tipo, lasciatemi dire, psicologico, dei quali bisogna tenere conto per individuare l'intervento che di volta in volta offre il giusto mix di benefici energetici a costi accettabili. L'ospite che questa sera ci aiuterà a capire quindi quali sono i criteri di fondo che dobbiamo applicare di fronte a una caldaia da sostituire è Cesare Boffa, ordinario di fisica tecnica e titolare del corso di fonti rinnovabili di energia presso il Politecnico di Torino, nonché presidente del Comitato Termotecnico Italiano. Buonasera Boffa. Buonasera, buonasera. Dunque, prima di impegnarci appunto ad analizzare le varie tipologie di caldaie esistenti, ecco, proviamo a dare qualche indicazione di carattere generale. Per esempio, quando dobbiamo sostituirla, questa caldaia? Ecco, allora il problema è che la caldaia invecchia con un tempo, diciamo, dell'ordine di grandezza dei 10 anni, tanto per capirci. L'impianto invecchia con un ordine di grandezza di tempo un po' più elevato, sono qualche decina di anni, certo, a secondo di come è fatto l'impianto. E l'edificio invecchia con un ritmo ancora più lento. Noi in Italia siamo abituati ad avere case che hanno 3.000 anni, certo, ma in realtà un edificio dopo 50 o 60 anni, e soprattutto gli edifici per uffici, eccetera, hanno bisogno di un drastico reshuffling anche della struttura, dell'involucro dell'edificio. Quindi, certo, diciamo 10 anni la caldaia, 30, 20 o 30 l'impianto e 50 l'edificio. Ecco. Certo. Ecco, quindi un primo criterio comunque l'abbiamo stabilito, insomma decidere se è il caso di cambiare solo la caldaia o di cambiare anche tutto l'impianto di riscaldamento, se è il momento di metterci mano, perché lì ci possono essere delle conseguenze anche sul tipo di caldaia che si sceglie, insomma. Eh sì, perché molte caldaie ad alte prestazioni hanno delle prestazioni tanto più elevate quanto più l'impianto è adatto a recepire il tipo di caldaia. Per esempio, le caldaie a condensazione funzionano ovviamente molto meglio se l'impianto è un impianto a bassa temperatura, ma lo stesso può dirsi delle pompe di calore, di molti altri impianti. Tutti gli impianti solari termici riescono a dare una bella prestazione se l'impianto che recepisce queste energie è un impianto che utilizza un fluido termovettore a temperatura bassa, insomma. Di 30 gradi, parliamo dei riscaldamenti a pavimento, insomma. 35, sì, ecco, che non siano gli 70, 80 dei vecchi dei termosifoni, non diciamo vecchi perché vanno benissimo i termosifoni. Certo, ecco, senta, quanto deve essere grossa questa caldaia? Se non sbaglio c'è stata un po' una tendenza al sovradimensionamento. Ma sì, guardi, perché quando, soprattutto negli anni 50, quando i calcoli degli energetici non venivano proprio fatti, veniva dimensionata la potenza dell'impianto e basta, tanto il combustibile costava molto poco. In realtà una caldaia troppo grande ha poi delle prestazioni energetiche non ottimali, perché essendo surdimensionata si attacca e stacca troppo spesso, ha delle grandi perdite, insomma ha un rendimento complessivo, soprattutto un rendimento stagionale molto meno buono di una caldaia dimensionata giusta. E abbiamo già stabilito un altro criterio: la caldaia non deve essere troppo grossa, però c'è un problema ben noto, insomma d'estate ed inverno la potenza richiesta alla caldaia è molto diversa, d'estate serve solo per lavarsi le mani, insomma. e quindi come facciamo? Esiste una via di mezzo? Cosa si fa in questi casi? È proprio così, insomma, è un problema. Nei grandi condomini è possibile tenere due impianti separati, un impianto per l'acqua calda sanitaria e un impianto per il riscaldamento. Ci sono caldaie costruite ad hoc che consentono un funzionamento estivo e invernale, estivo solo per l'acqua calda sanitaria ed invernale per il riscaldamento, altrettanto efficace che due caldaie separate. Comunque bisogna che il problema sia chiaramente posto al momento in cui si sceglie la caldaia. Sono due servizi diversi e vanno entrambi soddisfatti. Queste caldaie che hanno questa capacità di regolazione sono le caldaie modulanti, è così? No. Le caldaie modulanti sono un'altra cosa. Ecco. Queste sono caldaie che sono in grado di fornire con una buona prestazione, con una buona efficienza, sia il calore d'inverno per l'impianto di riscaldamento, sia l'acqua calda sanitaria anche d'estate. Quando il fabbisogno termico è molto ridotto, certo, la potenza diventa un decimo, ecco, di quella richiesta d'inverno. Allora una caldaia che è capace a funzionare a potenza massima, a potenza nominale, a una potenza un decimo, sempre con lo stesso rendimento, è una caldaia, deve essere una caldaia furba, non può essere sofisticata. Tant'è che spesso se ne fanno due diverse, una piccola per fare l'acqua calda sanitaria e una grande che fa tutto il resto. Le caldaie modulanti cosa sono allora? Le caldaie modulanti invece sono delle caldaie che sono capaci a fornire con un'efficienza vicina alla massima una potenza variabile nel tempo. Questo serve perché noi prima siamo stati un po' approssimativi quando l'ho detto, si dimensiona la caldaia sul reale fabbisogno dell'edificio e non di più. Perché il reale fabbisogno dell'edificio in gennaio è un certo fabbisogno, certo. In novembre è molto meno. È chiaro. Quindi bisogna anche avere una caldaia che sia capace di comportarsi bene nelle stagioni intermedie. Certo. E lei si comporta bene solo se modula, cioè se il bruciatore che fornisce il calore è capace a fornire una quantità di energia con continuità, ma più piccola, più grande o più piccola. Invece normalmente le caldaie che non sono modulanti regolano accendendosi e spegnendosi comandate da un termostato. Insomma, il criterio qui è che la caldaia deve essere in grado di garantire buone prestazioni in tutte le condizioni d'uso e questo non è scontato, bisogna assicurarsi di questo aspetto. Bisogna chiederlo, pretenderlo dal progettista e dall'installatore. Perfetto. Scriverlo nel capitolato prestazionale. Io voglio una caldaia che non sia surdimensionata, che sia capace a far fronte al massimo rigore più freddo che c'è, supponiamo, a Torino, ma che si comporti bene anche nelle stagioni intermedie. Va bene, allora grazie mille, professor Boffa. Grazie a lei. Grazie per averci seguito. Mister Kilowatt torna domani. Parleremo di ESCO, ovvero delle compagnie che offrono i servizi energetici. Cosa sono, cosa possiamo pretendere da queste imprese e come trovarle. Buona serata.